Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic. Microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di DJ Telesforo. Devo dire che non mi piace molto tromba in versione estiva con questa canottiera. Guarda, se tu avessi portato qui in studio la canottiera traforata, ti avrei proprio preso a schiaffoni. E comunque questo bermudino color khaki, questo è un khaki militare, eh? Eh sì, i khaki mi piacciono. Mi fa impressione, è proprio da vecchio intellettuale anni 70, col calzino, la scarpa da ginnastica e questi pelazzi. Quanti peli hai, tromba? Sarà il testosterone da uomo del sud. Una specie di Lucio Dalla della nuova generazione. Beh, ma non esageriamo. Dai, vabbè, sì. Allora, con tutto il rispetto per Lucio Dalla, certo, come artista e anche come uomo. Comunque, questo è il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti voi da GG Telesforo, pronti per dare il via a un'altra puntata con il suono della musica e la prova del suono di Radio 24, puntata con la quale oggi vi vogliamo presentare novità discografiche e qualcosa che abbiamo scovato rovistando nella nostra ormai infinita discografia. Non riesco più a tenere in ordine tutti i CD e il vinile. Tocca fare alla fine della produzione, mio caro Francesco, dobbiamo prendere 2 giorni per rimettere tutto a posto. Sì, siamo tipo sepolti in casa. No, guarda, siamo circondati da pile, colonnine di CD e di dischi. Non si può andare avanti così, non riesco più a muovermi. Sta per esplodere lo studio. Allora, con chi vogliamo iniziare? Con Andrea Triana. Ah, mi piace tantissimo Andrea Triana, splendida voce, molto educata e educata anche come persona, mi auguro, che noi abbiamo conosciuto negli album del visionario Bonobo, bravo producer discografico, anche un musicista che nei suoi album ha portato una ventata di freschezza ormai da qualche anno a questa parte, utilizzando elettronica con una visione, come posso dire, globale, perché ci sono anche suoni che arrivano dal resto del mondo, il tutto però utilizzato con una certa genialità sul computer. E infatti ha scovato questa vocalist che viene dal sud di Londra, l'ha portata appunto alla notorietà e poi lei ha anche percorso una propria strada. Infatti questo è il suo secondo o terzo disco, se non sbaglio, si chiama Giants. Si intitola Giants, il nuovo album di Andrea Triana, qui al soundcheck di Radio 24. Il brano splendido si intitola Lullaby. Andrea Triana al soundcheck. Hold me close and listen. The time is gray into bright sunshine. When I was that little girl lost in the world, you painted my sky. Sing me songs of wisdom and tell me it's gonna be alright. Voce di Andrea Triana, l'abbiamo scoperta con Bonobo, ma è arrivata con il nuovo album, si intitola Giants, pubblicato solo da qualche settimana, e da Andrea Triana direi di restare sempre nei sobborghi di Londra, perché è da quella zona che arrivano invece Nubian Twist. Li abbiamo già ascoltati, abbiamo già presentato con loro, collegati via Skype dal loro studio. La verità era proprio una cucina, a me mi è sembrato di vedere padelle nello sfondo nel collegamento Skype. Forse era un open space. Ebbene, il tutto ruota intorno al talento di questa giovanissima interprete, soltanto 23 anni, per Nubia Brandon, questo è il nome della leader dei Nubian Twist, che hanno così realizzato un album che forse non ha un titolo, si intitola semplicemente Nubian Twist perché c'è una sigla per identificarlo. Sì, WF103, non so esattamente cosa voglio dire. E i Nubian Twist è un'altra di quelle realtà musicali che noi abbiamo scovato prima rovistando nei meandri di St. Cloud Bandcamp, e poi fortunatamente l'album è stato pubblicato, ce l'hanno presentato proprio loro qui al Soundcheck Radio 24. Direi di ascoltare ancora una volta il sound tipicamente reggae dei Nubian Twist con Hypnotized. Murder, we kill it with the sweetest sound. Murder, we kill it with the toughest sound. And we say murder, we kill it with that sound. Repetition is our ammunition, go further. Be sure to see your sorrows drown. Sound check. Il suono della musica. Suono delle trombe, ecco, squillino le trombe, posso proprio dirlo, mio caro Francesco Tromba. Brass Tracks arrivano da Chicago, vero? Non è New York? Però si sono trasferiti a Brooklyn, sono di base a Brooklyn. Certamente, vanno tutti lì. Eh sì, perché lì comunque c'è sicuramente molta più musica, è un centro musicale importante. Sì, praticamente un tormentone, una melodia ipnotica. Io quando ho ascoltato il brano per la prima volta, poi sono stato costretto a risentirlo, e questo tema mi è rimasto proprio nel cervello come cosa? Beh, vabbè, insomma, mi ha ipnotizzato. Allora, Brass Tracks con Corduroy qui al Soundcheck di Radio 24, quando sta per arrivare una delle nostre preferite. Tra l'altro, l'album Perfect Animal di Becca Stevens, che sta spopolando lì negli Stati Uniti, perlomeno per fra gli appassionati di musica che ascoltano grande qualità, è inserito fra le nomination del nostro Soundcheck Airplay Music Award. E sta anche avendo un discreto successo fra le votazioni, sto vedendo. E allora lo ricordiamo, potete votare anche voi i vostri album preferiti scrivendo all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it dopo aver verificato tutte le nomination. Dove? Su Facebook o su Twitter. Ecco, alla nostra pagina, sulle pagine che riguardano il Soundcheck di Radio 24. Allora ve lo ripetiamo, questo è Perfect Animal, il titolo del nuovo album di Becca Stevens, che fra le composizioni originali inserisce anche qualche arrangiamento originale di brani di successo, come il caso di Thinking About You di Frank Ocean al Soundcheck Becca Stevens. Sound check. Yes. Il suono della musica. La voce riconoscibile di Joe Diuchi qui in compagnia di DJ Fici ha abbandonato per un attimo la veste di voce solista dei Fat Freddy's Drop per dedicarsi anche a produzioni alternative alla band nella quale milita da anni, band creata da Joe Diuchi insieme a altri strepitosi musicisti neozelandesi che lì in Nuova Zelanda spopolano, fanno sempre sold out, ma anche in giro per il mondo ormai da qualche anno a questa parte sono molto seguiti, e spero proprio che qualche promoter italiano li possa portare qui da noi. Sì, finora forse il punto più vicino all'Italia in cui sono venuti è stato il Sonar Festival di Barcellona, in Spagna. Sì, in anche perché loro coniugano le sonorità sole R&B contemporanee, però con una vena tipicamente reggae, e da lì il suono dei Fat Freddy's Drop. Joe Duke è uno dei miei cantanti preferiti, te lo voglio dire. È bravissimo. Voce particolare, riconoscibile, una voce che dà un suono a qualsiasi tipo di produzione. E tra l'altro, avere un suono per una band e per un artista, forse oggi è la cosa più importante, essere riconoscibili. Eh sì, loro tra l'altro hanno anche la propria etichetta discografica, perché vogliono essere liberi al 100% di produrre la loro musica e di essere, appunto, di avere una vera e propria identità. E tra l'altro lui non si chiama Joe Duke, ma il suo nome originario è Dallas Tamaira, e poi ha scelto il nome del padre, che sarebbe Joe, che è anche un quotato musicista e songwriter in Nuova Zelanda, e poi il soprannome della madre, che sarebbe Duke, perché è una grande appassionata di Duke Ellington. Ecco, questo è gossip musicale, è quello che stai facendo, è il gossip, ti stai specializzando nel gossip musicale, tromba. Vado a cercare un po' di notizie. Perché sei un tipo curioso. Eh sì, perché altrimenti se non ci fosse la curiosità, la musica che suoneremmo magari sarebbe... Beh, è fondamentale la curiosità per un musicista, la curiosità è alla base della creatività. È anche dell'evoluzione dell'uomo, no? Assolutamente sì, e siccome noi siamo curiosi, alcuni mesi fa abbiamo scovato anche il talento di Shaina Stili. La verità, l'ho conosciuta con gli Snarky Puppy come voce solista di uno dei brani presenti in Family Dinner, bellissimo album dal vivo, però poi Shaina Stili ha realizzato Rise, questo è il titolo del suo ultimo album, dal quale ascoltiamo Sunshine Girl, e questo brano è veramente carino. Sì, tutto il disco a me piace tantissimo. Soundcheck, il suono della musica. Somebody needs to learn how to love yourself before you can love anybody else. Come on, love. Love can change. Negli Stati Uniti a marzo, Erica Campbell dall'album Help 2.0, quindi un album della nuova generazione. Sì. Il brano era More Love per questa campionessa del gospel americano, campionessa anche perché si è aggiudicata il Grammy Award proprio quest'anno come con una composizione miglior canzone gospel della passata stagione. Sì, perché lei comunque viene dal gospel, perché aveva un duo con sua sorella e si chiamavano Mary. Un duo favoloso. Sì, veramente. Anche due bellissime ragazze e due bellissime sorelle. Sì, due voci veramente stupende. Dalla voce gospel di Erica Campbell qui al Soundcheck di Radio 24, per chiudere questa prima parte del nostro appuntamento, perché poi, come ben sapete, torneremo alle 19:15 con il suono più jazz. Questa sera, lo anticipo, andremo a sbirciare fra le nuovissime produzioni, quindi suono jazz contemporaneo, artisti più o meno conosciuti, ma anche questa sera grandissima qualità per il Soundcheck di Radio 24. Allora, da Erica Campbell passiamo invece a un artista non molto conosciuto da noi e forse neanche così apprezzato negli Stati Uniti, perché non credo abbia ancora un album pubblicato con una casa discografica ufficiale. Sì, perché vabbè, in realtà lui rimane abbastanza nell'ombra, perché è stato pianista ad esempio di Mary J. Blige, di Lala Hathaway, quindi comunque Come musicista è affermato, come artista un po' meno, perché non utilizza la discografia ufficiale, quindi per andarsi a pescare le sue composizioni bisogna andare a sbirciare in internet, e noi dove l'abbiamo pescato? Su Bandcamp. Su Bandcamp. Quindi abbiamo acquistato il materiale di Daniel Crawford, ve lo voglio ricordare, su Bandcamp c'è da divertirsi, si trova della musica eccezionale, musica che non troviamo troverete mai nei negozi di dischi. E tra l'altro è la piattaforma che ha distribuito in assoluto più fondi agli artisti, perché tu è come se comprassi direttamente dall'artista. Sì, ma poi la cosa comoda di Bandcamp per un artista è che puoi pubblicare quello che vuoi senza avere l'ansia di realizzare un album completo. Quindi realizzi un singolo, tu hai la tua pagina, lo pubblichi e lo metti in vendita e puoi dare il prezzo che vuoi. Sì, puoi scegliere tu tutto, cioè sei liberissimo. Sei libero anche di regalarlo, esatto, il tuo materiale. Sì. Beh, anche questa è una strategia. Ho notato che molti artisti producono nuovi album spendendo anche dei budget interessanti, però preferiscono diffondere la musica piuttosto che tenerla chiusa a casa, visto che i dischi non si vendono. Sì, magari l'obiettivo loro è quello di avere un maggiore ritorno nei live, in modo che... È vero, dai concerti. Quindi sì, il che significa che realizzare un CD oggi probabilmente per molti artisti è solo un bigliettino da visita. Eh sì, ormai la discografia non vende più di tanto, dai. Bene, ma noi siamo attenti alla musica. Eccolo qui Daniel Crawford, che chiede la partecipazione di un altro vocalist eccellente con questa voce dall'estensione infinita. Non so quante ottave riesce a coprire con le sue corde vocali Cleveland P. Jones. Daniel Crawford qui al soundcheck a chiudere la prima parte con un brano dedicato a Madre Africa, e infatti si intitola Home. Ci sentiamo più tardi, sempre su questi schermi. I wanna go. Yes, I wanna go to the place where I belong, to the place my soul longs for, to the place I call. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic one, check, check, one, two. Sound check, il suono della musica, di DJ Telesforo. Sempre operativi dal Groove Master Studio per la seconda parte del Soundcheck qui su Radio 24. Buonasera da Giorgio Telesforo, buonasera al nostro Francesco Tromba. Questa sera vi presentiamo discografia nuova di Zecca, anticipiamo anche delle pubblicazioni per quel che riguarda il catalogo jazz contemporaneo. E fra le artiste che abbiamo scovato c'è questa voce di una ragazza chiamata Indra Rios Moore. Lo sai come l'ho scovata? No, come? Seguendo il blog della mia amica China Moses, che dovresti sapere, la figlia di Didi Bridgewater. Bravo, vedi che sei preparato. È la seconda figlia di la prima si chiama Tulani, che poi è diventata la manager di Didi Bridgewater. Praticamente siamo parenti con Didi. Come parenti? Per affinità elettive, non ti far venire delle cattive idee. Te l'ha detto pure Didi via Skype, che siamo innamorati da sempre, pur non avendo mai fatto quello che di solito fanno gli innamorati dopo un po'. Quindi amore platonico. Amore platonico al 100%, purtroppo. Va bene, ma Indra Rios Moore l'ho scovata così, perché China Moses ha un bellissimo blog, legato a un sito che si chiama 22 Tracks, dove gli artisti presentano la loro musica preferita. E quindi lei segue l'airplay del soundcheck e scova delle cose nuove anche China Moses, e China Moses ogni tanto mi dà la possibilità di scoprire artisti come Indra Rios Moore, che qui presentiamo al soundcheck con un brano molto divertente intitolato Little Black Train, che arriva dall'album intitolato Heartland. Sì, lei è bravissima, mi piace tantissimo questo disco, l'ho ascoltato, abbastanza retro come sound, però molto ben fatto. Lei viene da Brooklyn, quando praticamente faceva la cameriera nei bar, però nel frattempo anche suonava, perché ha studiato canto fin da ragazza. Mentre faceva la cameriera conosce per caso un giorno un sassofonista danese, sì, del quale si innamora. Sì, e poi lei, dopo, il sassofonista, anche lui ovviamente. Certo, il sassofonista si è innamorato anche della sua vocalità. Eh sì, dopo Quindi lei serviva i tavoli canticchiando a destra e a sinistra. Dopo 3 settimane si sono trasferiti in Danimarca e si sono praticamente sposati. Bene. Hanno fatto un disco, un primo disco con... Pensavo mi dicessi hanno fatto figli. Sì, anche dei, hanno anche avuto dei anche una figlia. Quante cose sa questo tromba? Hanno fatto questo disco ed è stato fra i candidati come miglior disco della Danimarca di quegli anni. Poi hanno deciso di tornare in America. E perché? Dopo che uno ha successo in Danimarca, perché non sono rimasti lì? Perché comunque non è che sono tanti danesi, sono manco 6 milioni, mi pare. Dovevano confrontarsi invece proprio con la realtà musicale americana, sì. E quindi se ne sono andati? Sono tornati a New York, hanno speso tutti i loro soldi, tutto quello che avevano nel produrre questo nuovo disco che si chiama Heartland, come abbiamo detto. E da lì hanno comunque iniziato ad avere un po' di successo, perché comunque l'album è carino, molto recensito, ben recensito. E poi ho visto che sono anche in giro a fare concerti un po' dappertutto. Allora presentiamo Indra Rios Moore qui al soundcheck, Little Black Train, il titolo di questo brano, lo ripeto, molto divertente. La voce di Indra Rios Moore, che diventerà sicuramente una delle protagoniste della scena live per quel che riguarda il jazz contemporaneo, brano intitolato Little Black Train, da album recentissimo dal titolo Heartland. Che c'è? Tra l'altro questo disco è stato pubblicato per la Impulse Records, che quindi è già un bel contratto, Sì, perché comunque sta tornando in auge questa etichetta, che era la vecchia etichetta di John Coltrane. Esatto. E allora da Indra Rios Moore a un altro album molto atteso, e ho notato che la prevendita è attiva un po' sui vari reparti iTunes per quel che riguarda il jazz in giro per il mondo. L'album però sarà pubblicato fra qualche giorno, quindi il 16 di giugno. E quindi noi ancora una volta siamo in anticipo. È un bravo musicista di jazz, deve essere sempre in anticipo. Perché sennò perde il tempo. Perde lo swing, e noi invece ce l'abbiamo. Eccolo qui che torna Robert Glasper. Ha abbandonato ormai gli Experiment, perché naturalmente si è tolto tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili quando ha realizzato il primo Black Radio, con il quale vinse il primo Grammy Award, poi con la seconda mandata ha vinto anche il secondo. Con la casa discografica, ovvero la Blue Note, decise di pubblicare Black Radio nel reparto R&B. Perché? È quindi un rischio. Perché intanto era pieno di ospiti, da Erika Badu, Bilal, nella seconda produzione c'è Snoop Dogg, e quindi hanno deciso di affrontare il mercato dell'R&B, sicuramente più complesso, difficile e molto competitivo, però si sono tolti una bella soddisfazione. Invece in questo caso tornerà nel reparto jazz, perché il disco è un disco di jazz. Jazz contemporaneo per Robert Glasper, album intitolato Reconner, così come il titolo del brano che noi vi stiamo passando. Che ho detto? Perché il disco si chiama Covered, non Reconner. Covered! Mannaggia a te, Francesco Tromba, che bravo che sei. Va bene, scusatemi, si intitola Covered, hai ragione tu, però il brano è Reconner. Esatto. E qui riconoscerete, le orecchie attente degli appassionati di soundcheck riconosceranno il drumming di Vernon Reed e il contrabbasso di Vincente Archer. Esatto, proprio loro. Questa volta non ho sbagliato. Sì. Grazie. Soundcheck, il suono della musica. E anche questo artista lo troverete nel reparto jazz di iTunes, anche se l'album, come in questo caso, con questo brano intitolato December in New York, ricorda molto atmosfere anche classiche, potrebbe essere inserito tranquillamente nel reparto World Music o Alternative Music. Sì, e anche Bill Lawrence è super attivo su Bandcamp, praticamente ha pubblicato tutti i dischi sia suoi, anche molti degli Snarky Puppy li trovate su Bandcamp. Sì, perché Bill Lawrence è il pianista degli Snarky Puppy, ha pubblicato due dischi a suo nome, Flint, e adesso questo album che si intitola Swift. Ho sbagliato? No, giusto. Ecco, questa volta. E utilizza anche molti dei ragazzi che fanno parte degli Snarky Puppy. Sì, come ad esempio c'è Michael League, ovviamente. Ah, beh, certo, al basso e al contrabbasso, che poi è il leader degli Snarky Puppy, e quell'incredibile batterista che è Robert C. Wright. E infatti c'è anche lui. C'è anche lui. E allora è una sorta di remix di Snarky Puppy. E allora facciamo una cosa, continuiamo con il suono di Michael League, Robert C. Wright, Bill Lawrence, ma anche Corey Henry e tutti gli altri degli Snarky Puppy, con l'album di successo pubblicato da poco intitolato Silva, con la partecipazione della Metropole Orchestra. Giusto? Giusto. Giusto, quindi che hanno fatto? Si sono spostati a Londra per suonare con l'orchestra dal vivo? Immagino di sì, o a Londra o in Olanda, da quelle parti. Da quelle parti. Eccoli qui, Snarky Puppy da Silva, il brano è splendido, si intitola Flight. Soundcheck, il suono della musica. Chiudiamo questa seconda parte del soundcheck con un disco epico. Eh sì, perché veramente epico. Epico, epico, epico, incredibile. L'album che ha realizzato il sassofonista Kamasi Washington, questo ragazzone, un po' fisicamente mi ricorda un altro sassofonista. Chi? Napoletano, vediamo se indovini. Mi ricorda un po' James Senese anche nell'approccio strumentale. Approfitto per salutare il grande James. James, se senti questo appello, fatti sentire, mio caro. In qualche modo ci puoi contattare, siamo presenti dappertutto, ci piacerebbe averti nostro ospite, magari nella prossima edizione, visto che mancano soltanto due weekend, poi andiamo in vacanza, per quanto dobbiamo lavorare per mettere insieme un po' i the best del soundcheck. Sì, tra l'altro lui insieme ai Napoli Centrale nel concerto del 1° maggio forse sono stati i migliori. Ah, mi sono piaciuti tantissimo, certamente. Ma non è di James Senese che dobbiamo parlare, no, adesso, pur salutandolo, ma di Kamasi Washington. Ecco, James, se non conosci Kamasi Washington, ti consiglio di acquistare questo album infinito intitolato The Epic. Sì, infinito, perché ha scritto talmente tanta musica, ha realizzato arrangiamenti così corposi che ci sono quasi oltre 20 tracce dalla durata corposa. Importante, cioè quasi 10-12 minuti. Infatti questo brano, che poi è la sua rivisitazione di un classico, di uno standard del jazz intitolato Cherokee, dura 8 minuti e 14 secondi. Ed è uno dei più brevi. È uno dei più brevi. Allora, vediamo cosa ha combinato Kamasi Washington. Vi facciamo gustare quasi per intero tutta la traccia, salutandovi e dandovi appuntamento. Che c'è, tromba? Perché volevo mi interrompi quando presento? Una curiosità velocissima di Kamasi Washington, che lui è anche collaborato con Kendrick Lamar nel disco To Pimp a Butterfly, sì, racconta nell'intervista che quando dovevano scrivere la musica, lui non poteva assolutamente portare nulla a casa, dovevano fare tutto in studio, e c'era lì Kendrick Lamar che lo guardava mentre componeva, lui era alla sua tastierina, lo guardava mentre componeva, dopo che lui ha composto la musica, tutta la parte dei fiati, anche degli altri. Sì, lui realizzava gli arrangiamenti, sì, per Kendrick Lamar. Sì, Kendrick dava appunto il foglio con la musica a Kendrick Lamar, che sul momento faceva le liriche. Scriveva i testi, sì, meraviglioso. Fenomeno. Però non ascoltiamo Kendrick Lamar, hai capito, tromba? No, vabbè, però è una curiosità da lavare. Fammelo suonare, scusa. Kamasi Washington, ci risentiamo praticamente sabato prossimo. Alla prossima. A tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telespo.